come un go. Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie dal sottosuolo di Fyodor Dostoevskij, traduzione di Alfredo Polledro. Io ho un tremendo amor proprio. Sono diffidente, permaloso, come un gobbo o un nano. Ma davvero, avevo dei momenti in cui, se fosse accaduto che m'avessero dato uno schiaffo, forse sarei stato lieto perfino di questo. Parlo sul serio. Certo, avrei saputo scovare anche qui uno speciale godimento. Il godimento della disperazione, si intende? Ma è appunto nella disperazione che si hanno i godimenti più ardenti, specialmente quando senti con molta forza che dalla tua situazione non c'è via d'uscita. E qui, nello schiaffo, qui, poi, ti schiaccia addirittura la coscienza della poltiglia a cui t'hanno ridotto. L'essenziale poi è che, per quanto si rigiri la cosa, e ne viene pur sempre fuori che sono sempre io per primo il colpevole di tutto. E quel che più offende, colpevole senza colpa. E per così dire, per legge di natura, sono colpevole. Colpevole. In primo luogo perché sono più intelligente di tutti quelli che mi circondano. Mi sono sempre stimato più intelligente di tutti quelli che mi circondavano e a volte, lo credereste, ne ho avuto perfino scrupolo. Perlomeno ho avuto tutta la vita uno sguardo obliquo e non ho mai potuto guardare gli uomini dritto negli occhi. E dunque sono colpevole. Infine, perché se anche ci fosse della generosità in me, non mi verrebbe che un tormento maggiore dalla coscienza di tutta la sua inutilità. Perché, certo, non avrei saputo far niente della mia generosità, né perdonare, perché l'offensore mi ha colpito secondo le leggi naturali, e le leggi naturali non si possono perdonare, né dimenticare. Perché, anche se sono leggi naturali, si sente più sempre l'offesa. Infine, anche se io avessi voluto non essere generoso affatto e, al contrario, avessi desiderato di vendicarmi dell'offensore, non mi sarei potuto vendicare di niente su nessuno, perché, certo, non mi sarei deciso a far nulla, nulla, nemmeno se avessi potuto. Per quale ragione non mi sarei deciso? Su questo ho voglia di dire due parole a parte. Infatti, gli uomini che sanno vendicarsi e in generale difendersi, come fanno, per esempio? Non appena li invade, mettiamo il sentimento della vendetta, in tutto il loro essere, intanto, non rimane più nulla all'infuori di questo sentimento, la vendetta. Una persona così si butta addirittura diritto alla meta, come un toro infuriato, con le corna abbassate, e forse solo un muro lo può fermare. A proposito, davanti a un muro questa gente, cioè gli uomini immediati e d'azione, sinceramente cedono le armi. Per loro il muro non è una scusa, come ad esempio per noi uomini che pensiamo e per conseguenza non facciamo niente. non è un pretesto per fare fronte indietro, un pretesto a cui di solito non crediamo neppur noi, ma del quale siamo sempre molto lieti. No. No, no, no, no, no, no, no, no, loro cedono le armi. Loro cedono le armi con tutta sincerità. Il muro ha per loro un che di calmante, di moralmente risolutivo e di definitivo, magari perfino un che di mistico. Ma del muro parleremo più innanzi. Ebbene, un uomo immediato così fatto lo stimo appunto un uomo vero, normale, come voleva vederlo la stessa tenera madre natura, mettendolo al mondo. Un uomo così fatto lo invidio fino a scoppiare di bile e sciocco. Su questo non vi contraddico, ma forse l'uomo normale deve essere appunto stupido. Che ne sapete voi? Forse, anzi, è una bellissima cosa. E io sono tanto più convinto di questo, per così dire, sospetto, in quanto se si prende per esempio l'antitesi dell'uomo normale, cioè l'uomo intensamente cosciente, uscito, si intende, non dal seno della natura, ma da una storta, e questo è già quasi misticismo, signori, ma io sospetto anche questo. Dunque, quest'uomo della storta a volte cede a tal punto le armi davanti alla propria antitesi che coscienziosamente, con tutta la sua intensa coscienza, si considera un topo e non un uomo, un topo. Sia pure un topo intensamente cosciente, ma pur sempre un topo. Mentre qui c'è un uomo e di conseguenza, e soprattutto è lui che si considera un topo. Nessuno glielo chiede, e questo è un punto importante. Ma ora diamo un'occhiata a questo topo in azione. Supponiamo, per esempio, che esso pure sia offeso. È offeso quasi sempre, ed esso pure desideri di vendicarsi. Di malignità, forse, se ne accumulerà in lui ancora più che nell'homme de la nature et de la vérité. Lo schifoso, basso, desideriucolo di ripagare l'offensore con lo stesso male, forse gli pruderà dentro ancora più infamemente che nell'homme de la nature et de la vérité, perché l'homme de la nature et de la vérité, per la sua innata stupidità, considera la propria vendetta puramente e semplicemente come un atto di giustizia. Ma il topo, per effetto dell'intensa coscienza, qui nega la giustizia. Si giunge finalmente al fatto, all'atto stesso della vendetta. Il disgraziato topo, oltre a un'infamia iniziale, ha già avuto il tempo di ammucchiare intorno a sé, in forma di problemi e di dubbi, tante altre infamie. Ha un problema, ha aggiunto tanti problemi insoluti che per forza gli si raccoglie intorno una specie di broda fatale, una specie di fango puzzolente, costituito dai suoi dubbi, dalle sue agitazioni e infine dagli sputi che gli piovono addosso, dagli uomini immediati che stanno solennemente all'intorno in veste di giudici e dittatori e gli sghignazzano addosso a gola spiegata. Si intende che non gli rimane altro che fare con la sua zampetta un gesto di rinuncia a tutto e con un sorriso di ostentato disprezzo al quale esso stesso non crede. Infilarsi ignominiosamente nella sua fessura, là, nel suo lurido, puzzolente sottosuolo, il nostro topo, offeso, maltrattato e deriso, si sprofonda immediatamente in una fredda, velenosa e soprattutto eterna malignità. Thank you. di seguito ricorderà fino agli ultimi e più ignominiosi particolari la sua offesa, e nel far ciò ogni volta aggiungerà per suo conto dei particolari ancora più ignominiosi, rabbiosamente stuzzicandosi e irritandosi con la propria fantasia. Si vergognerà esso stesso della sua fantasia, ma tuttavia rammenterà tutto, vaglierà tutto, si calunnierà con circostanze inverosimili, col pretesto che anch'esse potevano avverarsi, e non perdonerà nulla. Magari comincerà anche a vendicarsi, ma in certo qual modo a tratti, a briciole, da dietro la tenda, in incognito, senza credere né al suo diritto di vendicarsi, né alla riuscita della sua vendetta, e sapendo anticipatamente che di tutti i suoi tentativi di vendicarsi, esso stesso soffrirà 100 volte più di colui del quale si vendica, mentre quello, magari, non avrà nemmeno di che grattarsi. Sul letto di morte rammenterà di nuovo tutto, con gli interessi accumulatisi nel frattempo. Ma, precisamente, in questa fredda, ripugnante, mezza disperazione e mezza fiducia, in questo consapevole seppellirsi vivo dal dolore nel sottosuolo per 40 anni, in questa situazione senza uscita, creata forzatamente, tuttavia in certo senso dubbia, in tutto questo veleno di desideri insoddisfatti, rientrati, in tutta questa febbre di esitazioni, di decisioni prese una volta per sempre e di pentimenti che dopo un minuto si ripresentano, è racchiuso appunto il succo di quello strano godimento di cui parlavo prima. Esso è talmente sottile e qualche volta sfugge talmente alla coscienza che gli uomini, appena appena limitati o perfino semplicemente gli uomini dai nervi forti, non ci capirebbero un'acca. E forse non capirebbero neanche quelli che non hanno mai ricevuto schiaffi, aggiungerete voi per vostro conto sorridendo. E in tal modo mi farete garbatamente intendere che forse nella mia vita ho sperimentato anche uno schiaffo, e perciò parlo da conoscitore. Scommetto che lo pensate. Tranquillizzatevi. Tranquillizzatevi, signori. Io non ho ricevuto schiaffi, sebbene mi sia del tutto indifferente ciò che ne pensate. Forse sono ancora io che rimpiango di avere distribuito troppo pochi schiaffi nella mia vita. Ma basta, non una parola di più su questo tema straordinariamente interessante per voi. Continuo tranquillamente a parlare degli uomini dai nervi forti, che non capiscono una certa raffinatezza di godimenti. Questa gente, in determinate circostanze eccezionali, per esempio pur mugghiando come tori a gola spiegata, e sebbene ciò, mettiamolo pure, faccia loro un grandissimo onore, tuttavia, come ho già detto, davanti all'impossibilità si placano subito. L'impossibilità significa una muraglia. Che muraglia? Beh, si intende. Le leggi naturali, le deduzioni delle scienze naturali, la matematica. Se ti dimostrano, per esempio, che discendi dalla scimmia, è inutile accigliarsi. Pigliala, pigliala com'è. se ti dimostrano che, in sostanza, una sola gocciolina del tuo proprio grasso deve esserti più cara di 100.000 tuoi simili e che in questo risultato si risolvono alla fine tutte le cosiddette virtù e i doveri e le altre ubbie e pregiudizi, tu pigliala così, non c'è che fare. Perché 2 per 2 è matematica. Provate a replicare. Abbiate pazienza, vi grideranno. Rivoltarsi è impossibile. È come 2 per 2 fa 4. La natura non vi consulta, non gliene importa nulla dei vostri desideri e se vi piacciono o non vi piacciono le sue leggi, siete obbligato ad accettarla così com'è e per conseguenza anche ad accettare tutti i suoi risultati. Una muraglia, per conseguenza, è una muraglia. Signori Dio! Ma che me ne importa delle leggi naturali e dell'aritmetica, quando per qualche ragione queste leggi e il 2 per 2 non mi piacciono? Si intende che questa muraglia non la sfonderò col capo. Se è vero, non avrò la forza di sfondarla. Ma nemmeno l'accetterò. Solamente perché ho una muraglia davanti e le forze non mi sono bastate. Come se una muraglia così fatta fosse davvero una consolazione e davvero racchiudesse in sé almeno una qualche parola di pace unicamente e solo perché è 2 per 2 che fa 4. Oh, assurdo degli assurdi! Ci vuole altro per capir tutto, aver coscienza di tutto, di tutte le impossibilità e di tutte le muraglie. Non accettare nessuna di queste impossibilità e di queste muraglie. Se vi ripugna, accettarle. Giungere per la via delle più inevitabili combinazioni logiche alle più rivoltanti conclusioni. Sull'eterno tema, secondo cui perfino della muraglia sembra che sia in qualche modo colpevole tu, sebbene di nuovo sia chiaro fino all'evidenza che non ne sei affatto colpevole, e in seguito a questo, digrignando i denti in silenzio e nell'impotenza, voluttuosamente irrigidirsi nell'inerzia, fantasticando, come ne derivi, che non hai nemmeno con chi prendertela, che un oggetto non c'è, e forse non ci sarà mai, che qui c'è una sostituzione, un trucco, una bareria, che qui c'è semplicemente un pasticcio. Non si sa che cosa e non si sa chi. Ma nonostante tutte queste incertezze e questi trucchi, soffrite lo stesso. E quanto più la cosa vi è ignota, tanto più soffrite. Ma voi dopo questo, anche nel mal di denti scoverete un godimento, griderete voi con una risata, vero? E allora? Anche nel mal di denti c'è un godimento, risponderò io.